sa tutto. È arrabbiato. Molto incazzato. Perché? Molto incazzato. Come mai? Molto incazzato. Ce ne vuoi sentire incazzato oggi? O invece il gasolio sembrava pulito invece l'asfalto. Mannaggia, mannaggia la marita di come Napoli, mannaggia la marita. Veloce, veloce, lo sai, fa male la sigaretta, veloce. precedente con la Sciapo. Che gente ne so, che gente? Ma però c'è, addirittura. No, Claudio proprio oggi, bobo. Non si è sentito Claudio, non si è sentito. Al buffo lo sento io. No, caro, c'è una la sigaretta, no, la gatto, caro, mannaggia, zappa. Oh, si è applicata la Natalessa. Addirittura più forte di me. Non è la mia, che? Buffo, più forte la mia, che? Oh, apporato buffo, più forte la mia, che? Apporato Marchetto, so, se il buffo è più forte la mia. Vino c'è, mannaggia le pecorelle. Eccolo. Fate il break. Aspetta, ciao Falche. Chi c'è? Pinocetto, ma la Butuzzo? Eia, ciao. Vabbè, è la Butuzzo, però capo. C'è questo buffo, buh. Ui, non se ne capisce niente, per carità di Dio. Avanti, Roberto. Ehi, aspetta, mi ascolta. Pinocetto, mi ascolti? Cioè, ascolti Roberto da Sierra. Pinocetto. No, io ascolto, non dico benissimo, ma abbastanza bene, dai. Normalmente era debole. Chi ha appena scelto? Ehi, oggi l'ascolto abbastanza bene. Ciao. Attento, Pinocchio, moro, amoro. Sparito, Qualche lampo nella lampada un'antenna deve essere. Miro, ciao, non mi avevo sentito. Aspetta un attimino, scusa un attimo, volevo fare una... niente, mi sembrava, già sto uscendo tutto a posto, no? Mi sembrava c'avevo stazionare, ma niente a posto, tutto tranquillo, dai. No, tutto a posto, non vedi, ci mancherebbe altro. Un po' il vento, sento, sta il vento. Aspetta, avevo un freddo, ne so grazie dai punti, mamma mia, aspetta, c'ho le mani cancarate, ma proprio gelide. Ehi, ma è per tu, lei? Sì, ma ero fuori di lì, sono rimasto un'oretta fuori, all'aria aperta, era un freddo, mamma, un'umidità poi che stava anche più avvicinato. Sì. Tappa. È freddo. Ricordo, Claudio, ho sentito se? Non ho sentito per niente. Ma aspetta, facciamo un'altra tiratina d'orecchie. Attenzione, Pinocchio il Moro, se coppi Sassari che chiama, adelante. Che bastardo, Pinocchio, non si dicono certe cose in frequenza. Attenzione, ascoltate qua questa piccola stazione, Spirulino che fa chiamata, cambio. Sta Pinocchio, imbarrato Pinocchio. E chi è che è? Domenico è? Attenzione, chiama Spirulino qua, fate chiamata, ascoltate questa piccola stazione di Spirulino, cambio. Ehi, cosa è? Ti ha capito, vabbè, hai capito chi è? No, ma Domenico. Ehi. Ma perché sta parlando così? C'è un altro apparato. Avanti Domenico, buonasera, ben entrato. Dove? Aspetta, fino c'è avanti, fatti sentire. Io c'è, e poi si fiocca, mica per Roberto, mentre Salvenne, Roberto Quadrato. Certo che non mi ascolta. No, non ti ascolta, te lo sfatto, è troppo in cima, no, e non fa modulare nessuno. Cappa, vai Roberto. Cosa ha detto, che cosa è troppo in cima, non ho capito cosa è. Che falco, il falchetto a me sta riferendo, è troppo in cima, non fa ascoltare nessuno, capito? Ma mi ascolta o no? Io lo sento non benissimo, ma lo tiro fuori abbastanza bene. Pinocchio, mi ascolti o no? Roberto ti ascolta più mio, però ti ascolta, ma tu lo ascolti a Roberto. Roberto, se ci vuole la supposta maracchina, poi arrivi. Tu non mi ascolta, cioè io riesco a sentire a lui e lui non sente a me. No, negativa, non ti sente. Ma cosa? Allora lui si sta aiutando con qualche cosa. Chi? Lui? Pinocchio. Beh, certo. È strano, aspetta, proviamo a dargli un pochettino di caramelle ancora. Attenzione Pinuccetto, se colpi Sassari batti un colpo. Me l'ho parlato sopra. Pinuccetto, mi ascolti, guarda un po' se mi ascolti. Pinuccetto, se mi ascolti batti un colpo. Roberto Quadrato, la sera, la sera. Vai, dove si è soltato, vai. Attenzione Pinuccetto, se colpi Sassari. 1, 2, 3, prova radio. Veloce, immagine le pecore. Allora sentiamo mentre sta chiamando. Stazione copiate qua, stazione Sbirulino, in partenza il primo diretto per agitare le bombarde, cambio. Qui dove no, ma niente, no, passa a parte scherzi. Robe, invece ascolta solo a me, a te non ti ascolta. Poi mi sono spostato un attimo, cos'è detto qualche. Ci credo, è impossibile che mi ascolta, ci butto tutto la lame. Senti la moderazione, ma non sente la voce. È Roberto Quadrato, la sera, veloce, cavolino. Io lo ascolto, non dico benissimo, Santiago 6, Radio 3, li do, però lo capisco, strano che lui non riesca neanche a sentire un piluzzino. FM ne ha, Pinuccetto, dili che proviamo un FM. Oh Pinuccio, ha detto Roberto Quadrato, se hai FM, passare in FM e vedere un po' se ti ascolti lì, in FM. FM. Che se l'ha venduto l'FM, non è dai, vabbè. Abbiamo lasciato un po' Domenico come bianco. Avanti Domenico, tanto detto, dai, buonasera, mi sentite. Mi ha ben sentito quei palazzi lì quando sono modificati le FM e le autorità, non è che sono spinte, vanno modificati così, le FM non ci avrei 45 e basta, capito? Gli 80 canali avrà, eccetera. Ecco dove mi pare un continentale, va vedendo con questo baracco. Sono Roberto Quadrato! Mi ha preso la gente romano, hai capito, per compone, perché ora gli invioci, dai com'è, bisogna. Ma sai che mi stanno chiamando? Chi è che chiama Roberto Quadrato? Buonasera, dottor Roberto Quadrato! Oh, Sant'Antonio mio! Coro, via, sacra! Sabato! Oh, barra agricola, dai! Sì, a barra agricola, anche tu in continente sei andato? O sei in continente? Chi è che sta parlando altro? Lo sai chi è, no? È il Moro. Io non capisco, a momento arriva più forte. Pinuccio, ma quanto ne fanno per curiosità? Pinuccio è del Moro. Io ti stacca, ma vai mezz'ora che Roberto Quadrato ti chiama e tu non lo senti. È assurdo, eh? Roberto, maschile. Non femminile, Roberto Quadrato. E salutamela allora, saluta questa ragazza allora, cosa vuoi dirti? Vabbè, proprio non ti sente. Però c'è, mi ascolti? Ci ascolta per l'agricola, ci butto tutto. Mamma mia, Roberto! Allucinate la Roberto. E già, Robertino! Salvatore, ascolti la Pinuccetto tu. Faccio l'ascolto, digli a me, mettiti due fogli del giornale sotto i piedi. Metto che non mi ascolta, ci butto tutto io. Vediamo Domenico dove è arrivato, dove ci sei ancora? Domenico, per me è assurdo, non mi era mai capitata una cosa del genere, che io sento gli altri e loro non sentono a me. Lucidante, no davvero, eh. Ma è bassa la tua, Robè. Rispetto alle volte scorse, dove è bassa, vedi un po', non è che c'è qualcosa, è toccato qualcosa, vedi un po'. Ma basso il segnale, dici? Qua è tutto a posto, stazionare, tutto ok, non lo so. No, come segnale buono, fondo scala. Non lo so, ma è possibile che non ti sentano, quadrato. Attenzione Roberto, Sassari, posso togliere il calato di segnale, buonasera. Sono, aspetta un attimino, vabbè poco fa ho sollevato un pochettino, ma sono la solita potenza che utilizzo io. Cosa vuol dire calato di segnale? Ma rispetto a poco fa o ai tempi passati? Non lo so. Ciao Sandro, ben sentito a guardare a Papatango. E niente, dai, ma io ho capito, ma c'è che sta succedendo stasera, ho capito. Ma il vento, non lo so. Almeno, non mi ricordo l'ultima volta se la settimana scorsa o meno, almeno mi arrivavi Santiago 995, adesso si è sceso Santiago 8, la radio è buona. Non lo so, io diciamo appena acceso l'apparato potrei, tra un po'. Ora. Eh? No. Sei fisso a 8, non c'hai neanche tizi positivi, fisso proprio. Non so che dirti, qua sembra tutto in ordine, non so. Aspetta una cosa. Ora, processo sta funzionando. Adesso va meglio. Adesso va meglio, metà. Sandro, ha cambiato qualcosa? Ma ha leggermente di modulazione. Ma il segnale è sempre 8. Non lo so, sinceramente da parte mia qua. Certo, mi stanno dicendo tutto a posto, le stazionarie sono, c'ho due strumenti, sull'apparato e sull'accordatore esterno, ed è tutto a posto, non lo so, vale, c'è un po' di umidità nell'antenna, vale, c'è acqua, non lo so, l'antenna non sta radiando come dovrebbe radiare, non so che dirti, non vedo differenza dal solito che utilizzo, cioè dalle situazioni solite, poi magari tu te ne accorgi più perché sei più lontano. Ok, dai. No, ho voluto precisartelo giusto perché magari in vicinanza non è che si noti molto, e se è in lontananza magari l'accorgimento c'è. Tutti ringrazio, mi ha fatto questa osservazione, però non lo so, io qua vedo, lo strumento sta indicando la potenza assoluta, e il processo che sta portando i picchi sono positivi, e basta, stazionarie minime, come al solito, non lo so, non riesco a capire, se mi avessi detto magari c'era più bassa la modulazione, non lo so, avrei dovuto toccare il coso microfono, però normalmente lascio tutto come sempre, non modifico mai niente. Possiamo fare una prova in FM eventualmente per vedere se la parata sta dando la potenza. Vai. Sul 10, ma è tutto Domenico se ci ascolta ancora. Domenico, ci sei? Aspetta, ma cosa? Guarda adesso, niente è successo. Cosa è successo? Aspetta, ma voi ci avete messo male le bambine? Esatto, guarda a vedere un po', vabbè. Dove? Dove siete a me? K, ma mi siete bene? K, K. Riprese, vabbè. Guarda, guarda questa posizione, 1, 2, 3, prova radio. Questa è senza 1, 2, 3, prova radio. Come? Testa, dici? Non so, non riesco a capire perché è tutto solito come regolo sempre. Mi state facendo preoccupare. Va bene, dai. Andiamo avanti, dai. Poi piano piano male si scalderà l'apparato. Non so male perché era fermo da un po' di tempo. Roberto, non toccare niente. 9 più 10, radio 5. Non ho fatto niente, mi ho tolto solo acceso e spento il processore. Magari, non lo so, non volevo, magari c'era qualche po' di polvere dentro il contatto del processore. Qua si è tornata alla normalità, evidentemente c'è qualcosa che non va, oppure sta riscaldando l'apparato, non lo so. Io qua vedo, ho adesso fatto soltanto accensione e spegnimento del processore, ho dato un doppio clic, ho fatto, voi mi ascoltavate più basso proprio perché magari il processore non stava, non era inserito, ma il tasto era appena una via di mezzo, come può capitare un granellino di polvere. No, modulazione una è il segnale l'altro, Roberto. Non lo so, comunque qua io sto ripetendo come prima, vedo che non è cambiato niente di segnale, almeno a parte mia. Tu mi stai dicendo che è cambiato qualcosa, va bene, devo stare più attento la prossima volta quando faccio qualcosa di nuovo particolare, ma non credo di aver toccato niente. Oh, vabbè, dai, tutto Roger qua, dai, tutto con lo scala, tutto a posto. E mi sa che questo lo rispediamo di su. L'anno prossimo, se Dio vuole, li facciamo fare una revisione generale di nuovo, perché ogni paio d'anni è bene controllarli. Oh, vabbè, per me va tutto bene. Domenico, mi ascolti? Non so, ecco, guarda adesso per scrupolo l'alimentatore, 13,8, assorbimento. Detto c'è, diciamo è una norma, vabbè dai, non facciamo monopolio del canale con queste cose, dai, abbiamo risolto, meglio così. Ok, vediamo, magari anche per quello mi ascoltava Pinuccetto, forse perché stavo uscendo più basso del normale, Non lo so, vediamo un po'. Pinuccetto ci sì. Moro, ci stai? No, non c'è, Robella. Riprendi, fai girare per domenico. Ehi, aspetta, c'è anche Sandro. Sandro, tu lo ascolti a Domenico? Almeno negativo da parte mia. Come, tu l'hai ascoltato a Sandro? E ora ti stai facendo sentire lo stesso. Dai, dove sei arrivato? Passato il bibbio? Passato il bibbio, Sarcasia. Quindi è già buono, già lo stiamo ancora ascoltando, dai. Che tu eri Sandro che ha fatto un fischio? Con le scuse, dai. Con le scuse, poi mi dici come sto andando. Allora, sto provando un vecchio apparato. Non so se ti ricordi dell'Inuit da base, vecchio, più vecchio di nonno. No, ma quello di Claudio sta lì. Ti dico, se non ci sentiamo più, dai, salutone a più tardi, se così, dove? Ti saluto anche io, Domenico. No, ti ascolto ancora bene, non ci sono problemi. Comunque, ossia che poi ti perdiamo, considerando la situazione meteorologica. Ciao, ciao, buon rientro domani e buon tutto, buon lavoro per quello che devi fare. Ciao, ciao. Sta dicendo, Sandro, ma quello di Claudio è questo? No. No, è un vecchio apparato, diciamo, che ci avevo messo lì da parte. Adesso oggi l'ho tolto, l'ho pulito, lo sto provando. Era circa 3 anni parcheggiato fermo. Com'è? No, buono, ma ti stai aiutando con qualcosa? Sì, qualcosina. Li sto adattando ormai che il ZG l'MD4. No, va bene, buona modulazione. Non eccezionale, appena appena carente di acuti, però è bella, piacevole, se si ha come livello va benissimo, non, diciamo, non è né bassa né alta, giusta entro i limiti degli indicatori che ho qua io. Poi la modulazione è stata bella pulita, niente da dire. Ok, dai. Ok, diciamo un pezzo d'antiquariato, dai, tutto lì. Comunque, i vecchi barattoli funzionano sempre. Bene, Sandri, lo sai che i vecchi barattoli funzionano sempre. Gallina vecchia fa buon brodo. Guarda, se ci sono dei baracchini che dicono a loro molto di più di certi altri apparati più evoluti, parliamo in AM naturalmente, perché sono dei certi apparati in AM sulla 27 non è che vanno più di tanto. Quello è vero. Sandro, mi senti? Aspetta se ti sento. Ti sento, come? Caspita, ma Papatango sì. È positivo che sono a Papatango, perché? No, così, sto chiedendo. C'ho qualche aiutino sotto, No, vabbè, a parte l'aiutino, mi senti bene? Mi sento benissimo, chiaro come sempre. Attacca. Ok, no. No, pensavo che stavo uscendo dal radio. Ma che, quando ti arriva Sandro per fare un confronto dei segnali? Vai, Sandro. Ok. Vedi un po', prova. E Sandro, quasi 8 e mezzo, quasi 9. No, un po' più basso di me, dai, a me mi arrivano 9 più 15. K, a me quasi 9, 8 e mezzo, quasi 9. L'antenna tua è più specialista, diciamo, per le zone sud della Sardegna, la mia è un po' meglio, va verso la zona nord, diciamo. Ehi. Adesso sono liscio come l'olio. 9. Quanto? Santiago 9. Ok, questa antenna la prendo e la devo impazzamare. Veramente? Allora guarda, mi sta dando delle sensazioni questa antenna, sto uscendo con 4 watt. No, Sandro. La butto giù, la massimo. E ciccia. 4 marzo. Vabbè, ho vecchio barato. Allora, questo avrà sì e no. Io non lo so, avrà. Quanto avrà? 30 anni. Non lo so. Cos'è un veicolare o stata nella base? Tutte le base, quello che c'è a Transmitter, l'orologio. Non ce l'ho presente, già ne ho visto qualcuno della Inuit, però è il frontalino, che colore è? Allora, rimane celeste e bianco, è un pacchissimo di colore proprio. Cappa, no, sta andando bene, anche la bella modulazione, che è piacevole, ci sono problemi. Cosa c'ha? Male laterale pure? No, questo c'è soltanto M e FM. No, perché prima, normalmente per dire, io ho i Pace e Royce, grossi, di base, però hanno le bande laterali, però non hanno le FM, all'epoca non c'era, forse era poco utilizzata. Ho capito, sì, no, i vecchi barattoli, guarda, allora, diciamo che questo apparato io l'avevo acquistato circa 10 anni fa, allora acquistato circa 10 anni fa, poi l'avevo preso, l'avevo messo da parte, adesso l'altro giorno l'ho portato fuori per curiosità, ma magari niente accende. Allora questo c'ha la limitazione come vecchia, con il tastino a 110. Sì, mentre sì, vabbè, il Pace anche mio è così, è 220, può utilizzarlo anche a 110, mentre il Royce ho dovuto mettere un trasformatore dietro perché è alimentato a 110, oppure lo puoi fare andare a 12 volt, cioè l'ingresso per 12 volt, ma ho comprato la GBC uno di quei trasformatori, non trasformatore, riduttore di tensione da 220 a 110 e me lo alimenta. L'ho capito, sì, no, ma secondo me è tutto questione di antenna, io ho provato questa qui della Sirio 8 direttore, ho la mantova turbo, se per dirti, diciamo, io di portatore se ne ho ascoltato diversi, in assoluto sei quello che arriva più forte di tutti, perché hai detto, mi hai detto c'è 4 watt, c'è già Santiago 9 con 4 watt, Coffa vabbè ti stava aiutando, poi arrivare a Santiago 9 con 4 watt da portatore è abbastanza, gente che qua a Sassari non ci arriva, zone di, vabbè, parliamo con antenne limitate, certo se ti metti una manta va, però se tu vai giù nella zona bassa, molti non ci riescono ad arrivare a 9. Non so, ci sono tanti punti di vista, vabbè, diciamo che io sono abbastanza libero, diciamo, tutto libero, non ho ostacoli, non ho niente, l'antenna, l'ho detto, anzi, è abbastanza, è bassa, sarà circa, cosa sarà, circa un 3 metri, ma neanche, quindi, insomma, ma è da solo quanto è l'antenna? C'è il palazzo, quanto è alto? Non ti ho capito. Tu mi hai detto 3 metri dal tetto, è da solo l'antenna, cioè quanto è alto il palazzo? Allora, un palazzo di 3 piani, quindi 4, 8, pare sia 15 metri. Probabilmente sei aperto verso di me perché mi sta arrivando molto bene. Ma il tetto probabilmente è un po' più chiuso, non lo so, forse c'è la montagnetta Monteoro che un po' lo strappa, non lo so. Vabbè, le onde molte volte sono molto molto strane, in certe posizioni ti trovi più vicino e arrivano i segnali più bassi. L'altro magari più lontano riesce a trovare un canale, una riflessione e arriva il segnale più forte. È stato anche a me con Claudio l'altro giorno, ascoltavo quello di Ursula, ce l'abbiamo tutti e due di fronte, come segnale che siamo abbastanza simili come posizioni, eppure lui non l'ascoltava. Ma anche altre situazioni lui ascolta meglio di me. Nella zona di Furi verso Budusò eccetera Ciappa. E beh, non mi ascolti Sandrino lì a Pappatello? Credo, adesso l'ascolto meglio, bello chiaro chiaro, e ti ascolto un po' più bassino, comunque riesco a tirarti fuori, capisci che diciamo questo lo smitter magari sarà avaro, è uno smitter degli anni che furono, l'apparato è quello degli anni che furono, insomma, ti ascolto. Cappa cappa, io sento molto bene a Pinocchio Molo, avanti Pinocchio, Pinocchio, senti a Roberto Quadrato, Pinocchio. Cappa, veloce, cazzo, lo sta buttando con i sicchi, cazzo, andiamo bene, Pinocchio informa che sta gettando neve a sicchi, in quelle coordinate, Robè. Sì, già l'ho sentito, devi apportarmene due danneggiane di neve. Pinocchio, mi ascolti adesso? Sì, vabbè, non ti ascolto. Pinocchio, ascolti Roberto, tu lo senti Robè a lui? Sì, sì, lo capisco, ho risposto, cioè quello che mi ha chiesto, gli ha risposto, l'ho sentito tutto il discorso, però mi pare strano che non riesce a sentirmi a me, che strano, io lo sento, ma anche non ci avrà un kilowatt attaccato, quanti chiedili quanto ne sta dando? Caffa, Pinocchio, quanto ne sta dando, dai, perché Roberto ti sente, ma tu lo senti a lui, quanto ne sta dando? Ecco, 400 ne sta dando. 400 da quanto? Ma da dove stiamo volando? A Buduso, per forza non mi ascolta, cacchio, me ne saranno 400, lo sapevo che sia, vedi via. Sapete dai, da Buduso dai, 400 cavalli da Buduso, va bene dai, veloce, cappa dai, in ottima compagnia dai, c'è Sandrino da Papatango dai, da Porto Torres, che ti saluta, anche se lui magari, lui ti ascolta ma tu non lo ascolti a lui, meno c'è. Lo so, vabbè, mettami la lana, va, a Roberto, vabbè, ma Roberto ti ascolta bene comunque, meno c'è. Lo so, dai. Va bene, Lucia, dai, comunque ti salutano tutti, dai. Mi arrivi alla grande, Lucia, non c'è problema, dai, tutta la grande. Quando ti arriva, perché? E chiedi quanto gli arrivi tu. Ascolta, Lucia, tu hai una curiosità. Tu quando ti arrivo io a te, di Abuduso? adesso sono due, però la radio è perfettissima, dai. Io non lo sento, dici tu quanto arrivi, cioè quando ti arriva a te fai che? Vai, veloce, quando vai, fai un passaggio più, e lui mi arriva, lo sentiamo quasi sì, una radio bomba, eh. Poi mi sta arrivando Santiago 5 lui, radio 3, dico, dai. No, lui mi arriva una radio bomba e un Santiago, guarda, 5, ma la radio è perfettissima, eh. Ciao Sandro, ben sentito, come al solito, quando vuoi, diciamo, non è che ci sia sempre tutti i giorni, ma quasi tutti i giorni cercherò di entrare, dai. Ben sentito, buona giornata per domani, se non ci sentiamo, ciao ciao. Che te mi stai preoccupando, fa che mi fai la punta ripetita, la Bibbia, tornate nella casa tua, va. Addirittura. Quando devo parlare con le donne, mi collego al tuo ponte, e tu quando devi parlare con le altre barche ti colleghi a me. Ciao, no, scherzo, dai. Eppure è strano che Pinocchetto non ti ascolti. Pinocchetto. No, oh, stavi alzandomi. Ma se non vedi a quanto sono trovatemi, Pinocchetto. Mi fa molto, molto, molto piacere. Ma problema, non è Pinocchetto, ma problema. Non c'è problema. No, sta dicendo a Roberto che è strano che non senti a Roberto guardato. Mica Roberto arriva forte. Tu anche dì a Pinocchetto se adesso maestrale a lungo la cosa, a Calangianus, se riesce a parlare lui con Calangianus. Mi sta dicendo Roberto Pinocchetto, se riesci a parlare con Calangianus, ha detto se c'hai il canale 45, salire su 50, vediamo che è un po' più libero, vedere un po', dai, Roberto. No, perché le cose disturbato lui, io qua sento pulito, che cos'è la frequenza del 50, non lo so. Beh, questo non lo so neanche io. Perché vuoi salire su 50, Pinocchio? Fatta andare in FM, a vedere se l'arrivo in Chivi. Infatti, ha detto Pinocchio. Aspetta un attimo, Roberto. Attento Pinocchio del Moro, se copi la città di Sassari che fa chiamata. Ora. Perché? Vabbè. La carriera, sono passato a Bannano con la squadra a giocare e c'è un'antenna, una Mantova a Bonnada, nessuno c'è di baracchi, c'è il baracchino che conosci lì. Io? Non ci ha parlato con nessuno di Bonnada, no? Cappa. Come? Cappa, io ho parlato. Chi c'è? Perché c'è un'antenna vicino al campo di calcio, di fronte, un'antenna, una Mantova. Salvatore. Sì, adesso che mi ricordo già ci ho parlato anche una volta, sì, sì. Ma non è mai quello? Poco età. No, ho dato conferma lì a Pinocchetto che era salito su 50, gli ho detto, guarda che non c'è bisogno di andare su 50, vai in FM e non c'è problema. Dove FM non è? Penso che ce l'abbia. C'è una 48, che baracchino è quello? Non lo so, Pinocchetto, che baracchino hai? Che baracchino ha già? Alla 48 c'ha... Roberto. Sì, già ho capito, la torre annunziata a Napoli. Però no, non c'ha l'FM, se è modificato non ha l'FM, sì, diglielo. Oh, Pinocchetto, e se FM l'ha già? Se FM l'ha già? Se FM l'ha già? Ah, adesso per mettere il 45 l'ho tolto l'FM. Sì, già lo sentito, vabbè, loro non se ne va di nulla, tanto vanno in AM, già lo so per come. Oh, ma che? Io devo lasciare che mi hanno chiamato a pappare. Sentiamo, dai, probabilmente no, non dopo, magari domani, non ci avrò più tempo, accenderò anche prima, dai. Ok, beh sentito, come al solito, fa che? Salutami a Pinocchetto e poi tutti gli amici eventuali in ascolto. Ciao, oh, cuore da parte mia, ciao ciao. Ok, Roberta, buon cuore di buon tutto, buon cena, buon carica, buon tutto. Pinocchetto, ti saluta Roberto, quadrato da sera a sera, e niente, dai. KK. No, lui ti ascolta bene, Pinochet, ti ascolta bene. Sta facendo QRT perché deve andare a cenare. E niente, tutto si rinnova a domani, Pinochet. Ah, pa Pinochet, da, buon QRT, buon tutto, saluto a te, guarda familiare, Pinochet. Quando vuoi fa sempre piacere, Pinochet. Ma passa qualche tu ti saluta e moro. Che tu ti saluta moro. Buon carica, buon tutto, buon...